Beach. Ecco, arrivano gli americani con l'elicottero. Via, intendoci. Verso il buon elicottero, va, amici. Allucinate. Però ho detto che puoi arrivare da ora. Mannaggia, mannaggia. Me la prendo, perché oggi me la prendo a vino, eh. Adesso sono uscito stamattina, ma ho preso il giornale, sigarette, due patticini, ma sono rientrato proprio mezz'ora e me ne sono tornato a casa. Mezz'ora e me ne sono tornato a casa perché c'era freddo e poi non avevo niente in giro. Se ne è stato tardi ieri? Ieri no, alle 11, dopo le 11 ero già a casa. Questo l'ho partita a casa mio papà, quella del Cagliari. Cagliari Inter, 1-0. Lo so, poteva pareggiare il Cagliari. E adesso c'è una maturità della Juve. Milan già vinto, l'Inter ha vinto. E quindi niente. Adesso volevamo quella della Juve. Online 0-0, comunque sta attaccando la Juve, deve vincere per mantenere il passo del Milan dell'Inter, perché sono passati. Gamma è vero, è vero, si deve attrezzare pure questa, se no vai. Quest'anno comunque già va bene, va più che bene. E poi tiratura la spunta, tiratura la vince, dice quello. Già poi non detto in Emery, carine, sono le femme, che loro ne abbiano femme, ahimè, non so. Perché c'è una varia americana e c'è la M ma non c'è la FM. Secondo che nazione è, hanno la FM e non la M. Capito? No, non sono le FM. Io ho provato a girare le FM, mi sento bene, bene, bene, chiaro, le FM. No, sono le FM, certo, ma non hanno la M. Dipende dalla nazione. Io ho una radio che è americana, ha la M e non ha la FM. E viceversa, ci sono certe nazioni che non hanno la M, hanno solo la FM. Infatti volevo sapere, come va questa cosa che non possono avere la M, ma è proprio per legge? Sì, lì è così. Lì è così. Infatti molte radio americane hanno le FM, non hanno la M, molti hanno la M, non hanno le FM, dipende. Dipende, vabbè, è meglio avere una radio completa, però va bene la FM, no? Baracchino, non va di nuda. Io ho detto, la cabimentità non va nuda, manco pulsante, va allo scuola, c'è un volume, boh, c'è una M, figurati che la radio, c'è una proprio delle prime radio che ha fatto Lafayette. Accidenti, la radio. Però come con politica, non ve ne fa nessuno, eh. È un signor Baracchino, eh. Quello è il migliore che c'è in assoluto dei Baracchini, 23 canali, di quell'era. È poco pesa, è bello pieno dentro, non ve ne mondo sta. Bello pieno dentro, poi è tutta commutazionale lì. Va molto bene. Come quello paragonabile a quello, c'è solo il pace 123 e basta. Dai, giù tutta mandessa. Gappa, io tantissimi anni fa ho avuto un baracchino 23 canali, non baracchino, un portatile, era, diceva il microfonino che si attaccava nella valigetta, lo portava presso. Era un 23 canali, oggi non mi ricordo neanche che marca era, se era Inter, che cosa cavolo era. Ma già l'Inter che è arrivata dopo di ho avuto il coso, l'FM500, 34 canali, ma andava molto bene. Ma già lì era diversa, se parli poi del 23 è un'altra guba, faccio un video, andio che una cannonata 23 canali, una cannonata, è una recensione, una trasmissione, poi su tutta la demova, no? Che funziona, non te la vedi, non funziona, invece funzionano in tutti. Vabbè, sto decidendo se andare a sdraiarmi, paga dove, o che cosa fare, blu. Io stesso, sai, un paio d'ore me ne sdraio anch'io, me ne sdraio anch'io, lascio tutto acceso, e niente, mi riposo un paio d'ore, sono un sacco voce, per Napoli. Infatti sono 3:20, se no questa sera non c'è più voglia di parlare. Dai, vado a sdraiarmi un pochino, tanto che qua è tutto acceso, abbasso il volume. Mi guardo la partita. Cioè, ci sentiamo più tardi, verso le 5 o quanto. D'accordo, Claudio. Buon riposo con tutto, dai, a più tardi. Kappa. Claudio. Eia. Ciao, Giuseppe sono. Dammi un controllo, faccio un cuore, ti ho attaccato l'altro baracchino. Dipende dove sei, Giuseppe. E sono qua, via Montefurro. Via Montefurro, sentiamo dove sei qua. La radio già è buona, un po' più bassina dell'altra, ma comunque già è buona. Via, va bene, dai. E voi, via. Va bene, dai. Buon riposo e buon tutto, dai. Ok, ciao Giuseppe, sentiamo più tardi. Ciao, ciao. Ciao Giuseppe, anche a te. Ciao, Anto. Sentiamo più tardi, Giuseppe, che riposo. Ciao Giuseppe, più tardi. Via. Kappa, Godi, a più tardi. Ciao, ciao, miau, miau. Ciao, miau. Miau. Ciao. Amico, io mi ho segnato, miau. Ma io mi ho segnato 1-0, il gol della Juventus, grandetto dalla distanza di Aquilani, 1-0. Vai, gol. Bene, bene, perfetto, sei contento. Kappa, dopo, Godi, a dopo. Ia, ciao. Antonio. Ma attento. Mi senti? Oggi. Dammi un controllo, fai favore, come ti arrivo io lì. Non si capisce più nulla, se sei a dopo, là. Ciao, ciao, vai, è tutto. Antonio. Importante, Edo. Chi è che non sta uscendo? C'è un importante che non esce, Giuseppe. Ah? E c'è qualcuno che non esce, esce solo l'importante. Ah, ho capito. Vabbè, dai. Sentiamo dopo, stai arrivando bene, non ti preoccupare. Se ti do un nome io, Antonio è vicino a me, quindi ti ascolta bene anche lui. Sentiamo dopo. Ciao, bravo.